Blue Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome? Matteo. Cognome? Salvini. Età? 43 anni. Nato a? Milano. Eletto in? Nord-Ovest, quindi in Italia. Con quanti voti? 200.000 nella mia circoscrizione. Partito politico? Lega Nord. Gruppo politico? ENF. Segni particolari? Fortunatamente nessuno. Quante lingue parla? 3, milanese, italiano e inglese. Competenze europee in 10 parole. Mi occupo di commercio internazionale, di trattati, di agricoltura e di difesa del Made in Italy. Benvenuto nella Newsroom di Radio 24 da Silvia Bernardi. Brexit vince il sì. La sua prima reazione è stata? Gioia. In fumo miliardi di euro. C'è davvero da festeggiare? I miliardi di euro sono andati in fumo non per la Brexit, ma per le regole sbagliate dell'Unione e per una moneta sbagliata. 3 buone ragioni per stare fuori dall'Unione Europea. Liberarsi da vincoli che stanno massacrando l'agricoltura, la pesca e il commercio innanzitutto. Cambiare o uscire dall'Europa? Ce la metteremo tutta per cambiare, mi sembra che non vogliano cambiare, quindi tanto varrebbe fare come la Svizzera, come la Norvegia e uscirne. Che cosa c'è da cambiare in primis? Direttive sbagliate sulle banche, la direttiva Bolkestein e una moneta unica che evidentemente ha fallito. Siamo sicuri che dare meno soldi all'Unione significhi più soldi nelle tasche degli italiani? Farage, ad esempio, ha già cambiato idea. Ma io darei anche più soldi all'Unione, se ci permettesse di lavorare, di andare in pensione quando vogliamo e di gestirci le nostre banche, i nostri confini come meglio crediamo. Quindi è solo ed esclusivamente una questione economica, più che politica? No, è anche una questione di valori. È anche una questione di valori perché l'Europa, l'Unione Europea sta insieme solo nel nome delle banche, della finanza e degli interessi di pochi contro gli interessi di molti. Se si facesse lo stesso in Italia? Voterei assolutamente per il Leave. Se avesse la bacchetta magica? Cancellerei la legge Fornero, che non arriva direttamente da Bruxelles, ma che da Bruxelles è stata suggerita. La sua battaglia vinta? In difesa del Made in Italy, in difesa di alcune nostre produzioni, però ne abbiamo vinte troppo poche. Quella persa? Tante. Parlavo di direttiva Bolkestein che dall'anno prossimo rischia di mettere in mezzo a una strada 200.000 lavoratori in Italia nel settore del turismo balneare e del commercio ambulante. Tra 10 anni l'Europa sarà? Un'unione di popoli, altrimenti è meglio che non sia. Newsroom, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.